in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli e auguri a tutte le mamme. Oggi è la festa della mamma, quindi auguri a tutte. E cominciamo come sempre dal Corriere della Sera per la nostra carrellata sulle prime pagine dei giornali. Il Corriere della Sera decide di aprire sull'appello che ha fatto ieri il Presidente della Repubblica Mattarella. Basta egoismi sui migranti, egoismi sono gli egoismi dei singoli paesi dell'Unione Europea e quindi dell'Unione Europea in generale. Il Corriere della Sera riassume le parole di Mattarella con: l'Italia chiede alla UE un impegno comune. E c'è un'intervista di Ivo Caizzi, che è il corrispondente da Bruxelles del Corriere della Sera, all'ex commissario Antonio Tajani, che dice: la Merkel in realtà, io per quanto mi risulta, il titolo scelto per riassumere il senso dell'intervista, la Merkel vuole aiutarci, c'è una forte sponda, ci sarebbe quindi una forte possibilità di trovare una sponda nella Germania, che sicuramente è il paese più forte all'interno dell'Unione Europea in questa emergenza profughi. Il titolo però della centrale del Corriere della Sera è dedicato a un'inchiesta che il Corriere ha fatto sulle tasse locali, che sarebbero sempre più alte. Incassi cresciuti del 6,9% dal 2013 al 2014 e, secondo il Corriere, alla luce di tutti i tagli previsti nella finanziaria, ci sarebbe il rischio di nuovi aumenti in quelle tasse locali che in particolare vengono applicate dai comuni. La fotonotizia, come per molti altri giornali, è dedicata alla parata che c'è stata ieri a Mosca, la parata che celebrava i 70 anni della vittoria in quella che in Russia Putin definisce la grande guerra patriottica, cioè la seconda guerra mondiale, di cui la Russia è stata una dei vincitori. E le assenze però di molti leader occidentali hanno fatto molto parlare. Il nostro ministro degli esteri in realtà è andato in rappresentanza a Mosca, anche se non era proprio seduto vicino a Putin. Gentiloni a Mosca ha detto: per noi era giusto esserci. E l'articolo principale di Paolo Valentini, intitolato La parata senza leader e la sfida di Putin. La Repubblica ha una fotonotizia molto simile: Putin, la parata dell'orgoglio per sfidare il nemico Obama, e ce la racconta Nicola Lombardozzi da Mosca. Ma il titolo principale è uguale a quello del Corriere della Sera: migranti scontro nella UE, Mattarella, basta egoismi. E poi c'è una terza riga di titolo dedicata a un'intervista che il ministro degli interni Alfano ha rilasciato alla Repubblica. Ci sarebbe infatti un piano per la Libia, e vedremo, ne parlano anche altri giornali. In che senso un piano per la Libia? Un piano per intervenire proprio in Libia con una coalizione che potrebbe essere sotto l'egida dell'ONU oppure no, ma comunque con un forte ruolo dell'Unione Europea. Il Sole 24 Ore ha ancora un titolo diverso, perché Fabrizio Forché, uno dei vice direttori del Sole 24 Ore, e Marco Mobili hanno intervistato il comandante generale delle Fiamme Gialle Salverio Capolupo, che è da circa 3 anni alla guida della Guardia di Finanza, che spiega quali sono veramente le novità che ci sono state in questi 3 anni in cui lui ha guidato la Guardia di Finanza e che ci saranno ancora, anche alla luce della collaborazione con le Agenzie delle Entrate e il Ministero delle Finanze, sul fisco, sui controlli e sulla lotta famosa all'evasione fiscale. Quindi il titolo dell'intervista: dialogo con le imprese, controlli fiscali sempre più mirati. Trovate poi l'intervista pagina 3 del Sole 24 Ore. Molto interessante anche l'intervista di Marco Rogari al sottosegretario all'economia Enrico Zanetti sulla questione delle pensioni. Sapete che la Corte Costituzionale ha bocciato sostanzialmente la riforma Fornero, che bloccava gli aggiornamenti delle pensioni. Ora questi adeguamenti delle pensioni andrebbero tutti ridati a qualunque tipo di pensione si abbia. Sapete che Zanetti aveva detto: in realtà dobbiamo differenziare perché non ci sono soldi per tutti, e qui cerca di spiegare meglio la sua posizione. Il titolo dell'intervista: sacrifici per le baby pensioni, con cui si intende naturalmente le pensioni di quelle persone che, grazie a leggi un po' speciali che adesso in quasi tutti i casi non sono più in vigore, hanno permesso alle persone di andare in pensione molto presto. Come sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore la domenica, la lettera al risparmiatore, il richiamo alla lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, e questa, che come sapete tutte le domeniche il nostro collega di Finanza prende in esame un titolo quotato per spiegare agli investitori, da cui appunto il titolo lettera al risparmiatore, perché o perché no investire in quel titolo. Questa volta la società presa in esame è la SESA, una società italiana di informatica, e che è quotata sulla sul segmento Star del listino, l'informatica a misura di mercato italiano. Questo è il titolo scelto, poi trovate tutti i dettagli a pagina 18. Un altro articolo molto interessante che poi trovate a pagina 7, in realtà è un'intera pagina con due articoli, uno di Sara Monaci e uno di Mariano Maugeri, un primo bilancio dell'Expo. È passata esattamente una settimana, un po' più di una settimana, 8 giorni dall'apertura dell'Expo ufficiale venerdì 1 maggio della scorsa settimana, e si può fare un primo bilancio di visitatori, anche magari delle cose che sono andate alla perfezione, quelle dove magari c'è stato qualche problema. E allora ecco il titolo: verso il primo milione dopo una settimana, quindi 1 milione di visitatori, 11 milioni di biglietti venduti, e poi l'85% delle persone che hanno raggiunto Expo, questo è il terzo numero richiamato in prima pagina sul Sole 24 Ore, ha usato i mezzi pubblici per raggiungere appunto l'esposizione universale. Il titolo del Messaggero è ancora diverso rispetto agli altri, perché qui l'intervista richiamata in prima pagina è al ministro dell'economia Padoan, che cerca appunto di spiegare come verranno pagate questi arretrati delle pensioni. Pagheremo così. In settimana ci sarà il decreto, perché sapete che quando la Corte Costituzionale appunto emette una sentenza come quella che è stata emessa settimana scorsa, poi bisogna agire immediatamente, il governo in questo caso deve agire immediatamente, da qui il decreto pronto, i rimborsi saranno fatti per fasce di reddito, regoleremo subito il pregresso e il sistema futuro, e poi altri dettagli appunto li trovate nell'intervista che c'è poi a pagina 2, fatta da Andrea Bassi e Osvaldo De Paolini. Qui la fotonotizia è diversa, perché ieri sapete la Roma ha perso a San Siro contro il Milan, e quindi la Roma resuscita il Milan, la Lazio sorride, giallorossi sconfitti, c'è una foto di Totti e De Rossi, entrambi hanno lo sguardo a terra, mortificati un po' da questa sconfitta. E poi c'è un richiamato in prima pagina, trovate la notizia anche su altri giornali, è stato diffuso un identikit di quel cliente che è salito a bordo di un taxi venerdì, ha violentato la tassista, la svolta è venuta dal DNA, ha ricostruito il volto dell'aggressore, nelle auto sono state rilevate tracce e impronte digitali, quindi c'è una vera e propria in questo momento caccia all'uomo. Sulla prima pagina del Messaggero vi segnalo anche l'articolo di Stefania Piras, la notizia naturalmente la trovate su tutti i giornali, però qui lo segnalo dal Messaggero, che dà molto rilievo a questa notizia. No alle mammografie, bufera su Grillo, l'avete sentito anche nei GR. Beppe Grillo ieri, durante una delle tante dichiarazioni che ha fatto tra un passo e l'altro nella marcia di San Siro di Assisi, che doveva essere dedicata idealmente soprattutto a promuovere la proposta di un reddito di cittadinanza, ha anche detto che non capisce sostanzialmente che secondo lui l'appello di Veronesi, fatto così spesso alle donne per fare la mammografia regolarmente per idealmente scoprire un tumore, o nelle fasi iniziali, che è il modo migliore per curare un tumore, e secondo Grillo i fabbricanti di mammografie in qualche modo sovvenzionano Umberto Veronesi, perché sennò non si spiega questo suo appello a fare tutte queste mammografie. La mammografia naturalmente è un esame costoso, se viene fatto pubblica con il pubblico si paga un ticket, si può anche fare privatamente, ma è una polemica veramente, insomma, giudicate voi. Tra l'altro proprio sabato sul Sole 24 Ore Umberto Veronesi era intervenuto per promuovere questa collana che verrà allegata al Sole 24 Ore a partire da domani, che è la guida alla salute, era intervenuto proprio, forse chi ha letto ieri il Sole l'ha visto, con un articolo: perché l'informazione rende più sani. La prima pagina della Stampa è dedicata, come vi dicevo, a questa ipotesi di una missione in Libia. Più vicino il sia la missione ONU, forse all'Italia al comando. Domani Federica Mogherini, la cosiddetta Lady Pesk, cioè la responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, sarà a New York e si parlerà di questa ipotesi di suddividere i migranti in quote. Ogni paese dovrebbe prendere una quota di migranti, ma ci sono già state le prime reazioni a questa ipotesi fatta da Mogherini, cioè gli inglesi e i polacchi per esempio hanno già detto non ci va bene. La fotonotizia della Stampa è dedicata a un'altra parata, se vogliamo, a uno sguardo distratto potrebbe sembrare di nuovo una foto da Mosca, invece questa è una foto scattata a Nizza, perché il fondatore della Tiens, una gigantesca azienda cinese, ha portato mandato 6.000 dei suoi dipendenti in vacanza a Nizza per festeggiare i 20 anni della società. E loro si sono messi in posa e in divisa sulla Promenade des Anglais a Nizza, e sembra veramente una parata, ma in realtà si sono solo disciplinatamente messi in posa per una foto di gruppo, un gruppo fatto però da 6.000 persone, e quindi sembra in effetti una parata. La prima pagina dell'Avvenire titola su quello che è stato detto ieri sull'appello all'Unione Europea, un bellissimo titolo secondo me, un virgolettato: l'UE abbia cuore, pressing sull'Europa per l'accoglienza ai migranti. Mattarella, appunto, con questa sua affermazione, basta egoismi. E poi l'Avvenire, che come sempre ha il merito secondo me di tenere i riflettori accesi su tragedie che gli altri giornali, dalle pagine degli altri giornali magari spariscono, anche se naturalmente non sparisce la tragedia, sparisce solo l'attenzione dei giornali. Nepal devastato, ora l'incubo della tratta di donne e bambini. Il richiamo viene anche fatto perché domenica prossima ci sarà una colletta promossa dalla CEI a favore appunto del Nepal. E poi anche un reportage richiamato in copertina dal Niger, dove anche in quel caso a soffrire sono naturalmente i più piccoli e le donne. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali che abbiamo visto oggi, non hanno tutti gli stessi titoli. Allora vediamo Il Giornale, che parte dall'intervento di ieri a Genova. È stato un po' l'intervento di Silvio Berlusconi a Genova per la campagna elettorale a favore del candidato per le regionali Giovanni Toti, e ha un po' delineato Berlusconi come vorrebbe che fosse il nuovo partito, che non ha ancora un nome, però sicuramente sarà una cosa diversa, con nuova energia rispetto a Forza Italia. Il Cavaliere scrive Il Giornale, poi i servizi sono a pagina 2 e 3, pensa a un soggetto politico agile ma radicato sul territorio. E appunto la sua frase è stata: moderati uniti in un unico soggetto. Il Libero titola invece sulla questione delle pensioni, il titolo molto forte: facciamo causa a Renzi. Il Premier, infatti, secondo Libero, vuole rinviare a dopo le elezioni regionali, che l'ultima tornata sarà il 31 di maggio, la decisione sugli scatti bloccati illegittimamente. Solo allora annuncerà che non ha alcuna intenzione di rimborsarli. Forza Italia e Fratelli d'Italia pronti a mettere a disposizione avvocati per i ricorsi. Il prima pagina del Fatto invece anche qui si occupa della campagna elettorale per le regionali, tornando sulla campagna elettorale in Campania, e in questo caso viene preso di mira Vincenzo De Leo, che si è unito al candidato De Luca, e viene chiamato il compagno camerata perché prima di appunto abbracciare il centrosinistra era stato anche nel fronte nazionale, e quindi viene messo dal Fatto Quotidiano tra gli impresentabili. Poi un grande spazio alla manifestazione di cui a cui abbiamo accennato, di organizzata ieri dal Movimento 5 Stelle ad Assisi, il cui tema principale doveva essere la promozione del reddito di cittadinanza. Tra l'altro scrive il Fatto Quotidiano: prove di dialogo col PD, infatti potrebbe esserci appunto un prossimo incontro con alcuni esponenti del PD. E poi c'è un accenno nel sommario a quella polemica che dicevamo, perché secondo Grillo Umberto Veronesi ha quello che il Fatto Quotidiano edulcora questa posizione dicendo conflitto di interessi sugli spot alle mammografie, mentre le parole di Grillo le avete forse sentite nei telegiornali, sono state molto diverse, cioè prende dei soldi dalle aziende che producono gli apparecchi per le mammografie. Il Manifesto ha un titolo ancora diverso e come sempre molto immaginifico, diciamo così. C'è un campo di marijuana, il titolo è Il Taglia Erba, perché scusatemi, non di marijuana, sembra marijuana a me, ho fatto una specie di lapsus mio mentale. Il Taglio Erba è un campo, però potrebbe essere di marijuana. Adesso vi spiego perché la notizia che il Manifesto associa a questa grande fotografia è che il governo celebra l'export ma falcia la ricerca agricola. Tra i centri di sperimentazione tagliati dalla Spending Review anche quello di Rovigo, abilitato appunto alla produzione della cannabis terapeutica, perché sapete che la marijuana, la cannabis, può essere usata appunto per scopo terapeutico, e ormai è accertato che può avere degli effetti positivi in molti tipi di malattie, sia quelle neurodegenerative sia in alcuni tipi di tumori, se non altro per lenire il dolore. Il Ministero ha risposto a chi ha fatto notare che questi tagli forse erano inopportuni, che non sono definitivi, E intanto a Roma c'è stata questa Marijuana March e hanno partecipato, secondo il manifesto, in migliaia. Infine il titolo della Gazzetta dello Sport, che ovviamente titola sull'anticipo di cui parlavamo di ieri sera a San Siro: Milan doppia svolta, Inzaghi strappa gli applausi, ancora una volta il contestato allenatore del Milan si è salvato. Insomma, sì, sono settimane che sento parlare di un possibile esonero che però non arriva, ieri ha vinto, quindi forse appunto resterà fino a fine stagione, questa è l'ipotesi della Gazzetta. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali. Il Corriere della Sera ha una, pare, come a molti altri giornali, ancora approfondimenti sulle elezioni in Gran Bretagna, che sapete sono state stravinte dal Partito Conservatore, quindi dall'attuale Premier David Cameron, che così ha vinto un secondo mandato. Ha fatto molto il giro del mondo, una delle primissime foto scattate dopo l'annuncio dei risultati, di un bacio sulla guancia di Cameron a sua moglie, e quindi Michele Farina ci racconta un po' questa coppia, Dave e Sam, la coppia snob dedita al potere e al guardaroba. Hanno festeggiato al Marks Club di Mayfair, meglio non chiedere i prezzi, però al di là del titolo così un po' forte, un po' forse sembrerebbe molto polemico, in realtà è un ritratto anche molto, tutto sommato, positivo di questa coppia, che sicuramente ha dei tratti di vive in una, sicuramente in una condizione di privilegio, perché entrambi vengono da famiglie molto agiate, però tutto sommato hanno conquistato persino il cuore di chi non li vota, tant'è che Michele Farina cita per esempio il Guardian, che è un giornale decisamente schierato verso il centro-sinistra, direi proprio a sinistra, infatti tifava Miliband, cioè il partito laburista, e però ieri ha scritto per esempio: molti di noi odiano i conservatori, ma a molti piace Cameron. E poi un approfondimento con quattro domande a quattro responsabili di quattro banche d'affari: che cosa si aspetta la City? Il giudizio degli economisti: la stabilità fa bene al business, però c'è in arrivo una stretta sui conti. Vi segnalo dal Corriere della Sera uno di quegli articoli un po' da mani sul volante, come direbbe Alessandro Milan, che dove Gian Antonio Stella ha preso in esame i conti di questa ANVUR, che è una delle tante agenzie che esistono in Italia. Questo è l'acronimo di Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. È un'agenzia nata per giudicare le università, ogni delibera costa 100.000 euro. Dossier su produttività e conti: il 16% del bilancio è usato per remunerare il consiglio direttivo. Sempre sulla questione dell'Inghilterra vi segnalo dalle pagine interne di Repubblica un'intervista allo scrittore Hanif Qureishi: gli ideali di sinistra resistono in Scozia, Cameron ha vinto ma per lui sarà dura, l'intervista di Enrico Franceschini. Un'altra bella figura di cui parla anche in questo caso Repubblica, con un articolo di Federico Fubini, è quella di Roland Fryer, docente a Harvard, primo afroamericano a vincere la Clark Medal, che è il premio che viene assegnato al miglior accademico statunitense under 40, che in passato è stato assegnato a economisti che poi sono diventati famosissimi o addirittura premi Nobel, come Paul Samuelson, Tobin, quello famoso della Tobin Tax, Stiglitz e Paul Krugman, che poi appunto il premio Nobel l'ha vinto. Un'adolescenza difficile, trascorsa tra droga, piccoli reati e armi, dallo spaccio nel ghetto all'anticamera del Nobel, l'ascesa dell'economista che riscatta i neri USA. Vi dicevo dalle pagine del Sole 24 Ore il bilancio del primo giorno di Expo, della prima settimana di Expo, i primi 8 giorni di Expo in realtà, lo trovate a pagina 7 del Sole 24 Ore, Expo verso il primo milione, con quella cifra interessante, importante, dell'85% delle persone che sono andate a Expo, che per chi non abita a Milano è a circa 20 minuti di macchina a Milano, ma solo 10-15 minuti di metropolitana dal centro, e l'85% appunto del pubblico ha scelto i mezzi pubblici. E a proposito di Expo vi segnalo pagina che viene pubblicata alla domenica sul Sole 24 Ore a cura di Fabrizio Galimberti e Claudia Galimberti, che è Il Sole Junior, che è una serie di articoli, di pagine, siamo arrivate, pensate, al numero 148, l'economia spiegata ai ragazzi, e oggi è proprio dedicata a Expo. L'Expo ci può indicare la via del cibo sostenibile, se sappiamo che ogni giorno muoiono di fame tantissime persone, ma in realtà se prendessimo freddamente la quantità di cibo che c'è disponibile ogni giorno non sarebbe sufficiente per tutti, e quindi le risorse alimentari sono abbondanti ma non bene distribuite. E poi vi segnalo ancora sulla questione dei tumori, come vi dicevo, il Messaggero è quello che dedica forse lo spazio maggiore a questa ennesima polemica innescata da Grillo. Bufera su Grillo, e c'è stata subito la reazione del Ministro per la Salute Lorenzin, che ha detto: questa è disinformazione. Tra l'altro vi ricordo che proprio oggi ci sono 20.000 volontari in piazza dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che distribuiscono questa azalea della ricerca. Comprando questa azalea si finanzia la ricerca sul cancro. E c'è un'intervista a Stefania Gorio, oncologa, che dice: grazie alla prevenzione e alle cure guariscono 6 donne su 10 in Italia. Per il seno la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è dell'87%. Come si fa secondo voi la diagnosi? Con la mammografia, quella che secondo Grillo viene fatta perché i produttori di apparecchi per la mammografia finanziano Veronesi, che poi non si capisce bene cosa voglia dire, perché se finanziare Veronesi significa finanziare l'Istituto Europeo per l'Oncologia o altri istituti per la ricerca, beh, ben venga comunque questo finanziamento. Comunque tant'è, questa è la polemica di Grillo del giorno. Dalle pagine interne dei giornali vi segnalo anche un bell'articolo di Matteo Pericoli, che è un illustratore che vive a New York e ha raccontato, fino adesso aveva soprattutto disegnato New York, però ora ci racconta che De Blasio, il sindaco di New York, Bill De Blasio, vuole spegnere le 1000 luci di New York. C'è questa ipotesi per abbassare un po' le luci di notte e si chiede Matteo Pericoli: un contributo all'ambiente o un colpo mortale all'immagine della città, che viene definita la città da Never Sleeps, che non dorme mai? Vi dicevo dall'Avvenire l'approfondimento sul Nepal, lo trovate a pagina 7. In Nepal spunta lo spettro del traffico di esseri umani, c'è caos nei campi profughi, donne e bambini sono a rischio. Pensate che già nel 2013 sono scomparse dal Nepal 29.000 persone. Un'ultima segnalazione da Libero, che fa un'analisi dei debiti delle banche centrali, un argomento molto interessante. Per risorgere dalla crisi economica, l'Occidente dovrebbe creare una comunità di libero scambio con un unico modello, il credito al posto di euro, dollaro, yen e sterlina. Questa è l'opinione di Carlo Pelanda, la trovate su Libero appunto di oggi. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei giornali. Sull'Avvenire abbiamo visto questo allarme lanciato per la tratta di esseri umani, soprattutto donne e bambine in Nepal, mentre sul Fatto Quotidiano un'inchiesta di 2 pagine di Silvia Donchia, che si concentra su un caso simile, ma questa volta che potrebbe interessare l'Eritrea: dal Sahara a Roma, la tratta degli eritrei. Fuggiamo per vivere in pace, il grido degli africani che attraversano il deserto, pagano per non venire uccisi e poi per raggiungere l'Italia. Un viaggio nei palazzi occupati, nelle baraccopoli, nelle favelas della capitale, snodo per il traffico di uomini, perché come forse avrete visto anche guardando le persone che ci sono sui barconi che partono magari dalla Libia e approdano in Sicilia o in Grecia, ci sono anche tantissimi eritrei. Ma passiamo ai supplementi della domenica, ai supplementi culturali, e naturalmente iniziamo dalla domenica del Sole 24 Ore. Come sempre vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola La preghiera di Verlaine, perché la citazione è appunto una di queste brevi preghiere tratta dalle liturgie intime del poeta francese. Abbi pietà di noi, Signore, rendici più credenti e più miti, lontano dalla seduzione del peccato. Veglia su di noi come fa l'agricoltore sul grano di cui è geloso. Aprici con la fede alla felicità, aprici con l'amore alla felicità, aprici con la speranza alla felicità. Scritto Cristo, abbi pietà di noi. E scrive Gianfranco Ravasi: ti cerco brancolando, scriveva in un'altra delle sue poesie mistiche Verlaine, autore di versi satanici e carnali, ma anche di slanci spirituali come questo che abbiamo desunto dalle sue liturgie intime. È noto il suo tormentato e fin drammatico legame particolare con l'altro poeta romantico più celebre, Arthur Rimbaud. Così come è stata pubblica la sua dissennata, disordinata e breve esistenza. Eppure l'anelito alla felicità viene espresso dal poeta nell'invocazione a Cristo attraverso la chiave delle 3 virtù teologali: fede, speranza e carità, l'unica capace di aprire la porta della casa della gioia. Anche l'amico Rimbaud aveva confessato: attendo Dio con ingordigia. Ma dalla prima pagina anche la rubrica del nostro direttore, nostro del Sole 24 Ore e di Radio 24, Roberto Napoletano, Memorandum, che è dedicato a quello che lui definisce la primavera milanese. Sapete che in questi giorni di Expo e nei giorni che lo hanno preceduto c'è stato veramente una serie di segnali molto incoraggianti, al di là di Expo, per far capire che veramente Milano sta forse appunto vivendo una primavera, un nuovo rinascimento. C'è molta energia qui a Milano, chiunque ci sia passato in questi giorni l'ha sicuramente sentita, e quindi il titolo della rubrica oggi, la speranza di questa specialissima primavera milanese, che parte da un incontro che c'è stato in comune venerdì, a cui ha partecipato appunto Roberto Napoletano, dedicato all'Europa, perché sapete che poi ieri era la giornata dell'Europa, e conclude Napoletano: continuo a camminare e comincio a convincermi, perché appunto uscito dall'incontro in comune ha poi fatto un giro per la galleria, anche la galleria Vittorio Emanuele, altro simbolo di Milano, è stata restaurata grazie a una partnership con i privati, e da poco sono stati tolti i ponteggi restituendo la bellezza di questo capolavoro dell'architettura ai milanesi, ma a chiunque venga in città in questi giorni. E quindi scrive Roberto Napoletano: continuo a camminare e comincio a convincermi che questa primavera milanese sia qualcosa in più di una speranza. Me lo auguro per Milano, di riflesso per l'Italia, che se vuole rialzare la testa ha disperato bisogno di ritrovare la sua locomotiva economica e prima ancora civile. Ma la copertina in sé della domenica è dedicata sostanzialmente al Salone del Libro, la più grande fiera del libro che si tiene in Italia, che inizia giovedì prossimo, 14 maggio, a Torino, con un'anticipazione del libro di Daniel Kehlmann, che è lo scrittore tedesco. La Germania è l'ospite speciale di questa settimana, di quest'anno, e al suo nuovo libro I fratelli Friedland, l'articolo di Armando Massarenti, Arthur il fatalista e i suoi tre figli. Ma del domenicale parlerete sicuramente anche poi si può fare di Alessio Maurizi. Quindi passiamo alla lettura del Corriere della Sera. Qui ci sono parecchie pagine anche dedicate al Salone del Libro, al fatto che appunto l'ospite speciale è la Germania, quindi a molti dei romanzi e dei saggi di autori tedeschi che verranno presentati. La copertina della lettura, come sempre affidata a un artista questa settimana, è Alberto Garutti, ma vi segnalo alle pagine 2 e 3 l'intervista di Enrico Rotelli a Bret Easton Ellis, scrittore americano che forse il suo libro più famoso resta American Psycho, che era un libro molto crudo, dedicato a un killer da cui poi è stato anche tratto un film, ma qui poi dopo ha scritto moltissimi altri libri e soprattutto è diventato anche sceneggiatore. Il titolo dell'intervista: i nostri ragazzi anestetizzati, abbiamo cresciuto i figli in una bolla dove tutti vincono e il dolore non c'è. E poi una bellissima altra intervista di Serena Danna da New York a Jesse Jackson, reverendo Jesse Jackson, leader politico anche democratico dei neri. In questo caso la sua nuova lotta è all'apartheid tecnologico. Jesse Jackson lancia una nuova marcia per l'uguaglianza, la Silicon Valley è dei bianchi, abbia coraggio e si apra appunto anche ai neri. E poi vi dicevo tutte le pagine dedicate al Salone del Libro, agli scrittori, ma passiamo anche alla Domenica della Repubblica, come anche annunciato tra l'altro ieri, perché sicuramente è uno degli autori più di cui si parla di più in questi giorni. È un autore di fumetti, è Zero Calcare, e oggi sulla Domenica racconta le periferie viste dal suo punto di vista. Sapete che adesso i fumetti, c'è questo vezzo un po' di chiamarli graphic novels, cioè novelle grafiche, romanzi grafici, ne ha scritti molti di molto successo Zero Calcare, e ora in esclusiva per Repubblica questo racconto del appunto di Zero Calcare, intitolato I cassonetti generano mostri. Ma vi segnalo anche un interessante all'interno invece sempre di Repubblica, alle pagine della Domenica, un'anticipazione di un libro che si chiama Dovremmo essere tutti femministi, scritti da un uomo però, Chimamanda Ngozi Adichie, dove si spiega che sostanzialmente la tesi è: ridotta a macchietta, caricatura a una cronismo la femminista, oppure recuperata con operazioni più glamour che politiche. La più giusta rivoluzione del XX secolo ritorna, la rivoluzione appunto del femminismo, delle femministe, a patto di farla insieme agli uomini, perché l'unico numero primo pari è il 2. Poi un'intervista di quelle della serie Straparlando, sapete, molto su due pagine, molto lunghe, interessanti e in generale molto interessanti, di Antonio Gnoli. Questa settimana è dedicata al filosofo Carlo Sini, che forse qualcuno, anche professore universitario, io l'ho sentito proprio domenica scorsa all'interno di Musica Maestro di Armando Torno, e il titolo che riassume l'intervista: la filosofia ha assorbito tutto il mio narcisismo. E comunque in questa intervista Carlo Sini appunto ripercorre il suo percorso di filosofo, di anche di professore universitario, autore di moltissimi libri di filosofia. La alias del manifesto, la copertina è dedicata invece a una nuova edizione delle lettere che la poetessa Sylvia Plath, pensate 700 lettere scritte tra il 1950 e il 63 alla madre, un'estate chic di Sylvia Plath, questo è il titolo. E invece il macro, il supplemento del Messaggero, dedicato invece a Oscar Wilde e al suo viaggio in America. Il 3 gennaio 1882 lo scrittore, allora aveva 26 anni, sbarcò negli Stati Uniti per una serie di incontri e conferenze, ci restò più di un anno e quel viaggio gli fruttò $11,000 di allora, che erano 120.000 euro di adesso, ma poi soprattutto gli fruttò quel viaggio una serie di influenze, di stimoli positivi che poi si riversarono anche nella sua opera successiva. Era purtroppo l'ultima segnalazione che riesco a farvi, ma davvero tanti gli approfondimenti culturali e non sulle pagine dei giornali di oggi. Ancora auguri a tutte le mamme, visto che oggi è la festa della mamma, e buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.